si yo, y en el lento divagar, una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Esiste un'anima nazionale che noi possiamo rinnegare quanto vogliamo, sulla quale possiamo scherzare, la possiamo irridere, possiamo fare su questo ogni presa di distanza individuale, ma in realtà apparteniamo a questa anima nazionale. Qualunque sia la nostra origine, la nostra appartenenza ideologica, la nostra configurazione sociale, la latitudine da cui proveniamo, noi siamo sempre radicalmente e indissolubilmente figli di questo. Maccheroni, maccheroni, questa è roba da galettieri. Io non mangio maccheroni, io sono americano, sono vino rosso, io non bevo vino rosso. Marmellata, questa è roba da americani. Yogurt, mostarda, ah, ecco perché gli americani vincono gli Apache. Combattono gli indiani, gli americani non bevono vino rosso, bevono il latte, apposta non si imbriacano. Che avete visto mai un americano imbriaco voi? What the smell of mostarda? Questa roba mangiano gli americani, vedi? Roba sana, sostanziosa. Mazze zuzzeria. Gli americani, oh. Maccherone, m'hai provocato e io ti distruggo adesso, maccherone. Io me ne mangio. È terrificante quanto ancora noi siamo schiavi di un luogo comune che vorrebbe imbrigliarci in una figura di italiota che non appartiene più al passo del nostro paese, alla quale noi non apparteniamo sicuramente, dalla quale abbiamo preso le distanze, rappresenta lo specchio deformante, la forma più deleteria della nostra possibilità di rappresentarci. Noi siamo da tutt'altra parte, chi pensa che l'italiano sia un figlio di Alberto Sordi sbaglia radicalmente, anzi si merita Alberto Sordi. Noi italiani stavamo bene a pascolare le pecore, poi abbiamo voluto fare un paese industriale, noi italiani siamo fatti così. Rossi, neri, alla fine tutti uguali. Ma chi è che sta parlando? Chi è? Rossi e neri sono tutti uguali, ma che siamo in un film d'Alberto Sordi? Magari. Ma che siamo in un film d'Alberto Sordi? Ma che siamo in un film d'Alberto Sordi? Ma... sì, siamo... bravo, bravo! Te lo meriti, Alberto Sordi! Ciao! Te lo meriti, Alberto Sordi! 800 24 0024. Ma ce lo meritiamo Alberto Sordi? Io personalmente, visto che non mi nascondo mai dietro l'ambiguità delle mie opinioni, sono felice di meritarmelo. Io mi sento radicalmente, visceralmente, geneticamente figlio di Alberto Sordi. Io mi ritrovo in ogni sua espressione, in ogni sua stortura, in ogni sua deformazione, in ogni suo più sublime toccare le vette più profonde dell'animo, nel suo più cialtrone e scellerato rappresentare le bassezze della nostra natura umana. Io mi sento Alberto Sordi, voi come vi sentite? Vi sentite in qualche maniera simili, assimilabili, figli? Ritrovate l'Alberto Sordismo, una categoria dell'umanità simile alla vostra natura? O come diceva Nanni Moretti in Ecce Bombo, in una radicale e rispettabile presa di posizione, ve lo meritate Alberto Sordi, perché siamo tutt'altra cosa, siamo da tutt'altra parte. Ecco, la domanda questa mattina è molto precisa. Noi parliamo di Alberto Sordi, ma non tanto revocandone la figura artistica, la mastodontica presenza scenica, ma semplicemente guardandoci dentro e vedendo quanto questa serie lunghissima, dilatabile e indefinita di rappresentazioni dell'essere umanamente italiani ci assomiglia. Rinnegate o vi ritrovate in Alberto Sordi? 800 24 0024. Americani del Kansas City, noi siamo a Napoli. Andate, ma non si può, che non si può. Ma cosa non si può? Ah, ma che voi non vi rendete conto? Mi siete zompati tre volte sul piede. Ma quale piede? È il mio, che è il vostro. Piede no, mio. No. Ma avete proprio centrato il didone. Il dolore sul didone è un dolore che dà il cervello. Io manco pure di rispetto, scusatemi, Gesle. Noi la faccio, non resisto, svengo. Ah, ma stai attento tu a non venire sotto. Eccoci. No, state attenta a voi a non venirmi sopra. Mie care Kessler, sì. Voi siete due belle stanghe. Io per voi la più grande ammirazione. Ma ci avete pure due belle fette così. Iniziamo con un punto di vista che affonda le radici nella genesi dell'Alberto Sordismo, dall'americano a Roma. A Sordi in TV, in uno studio 1 del 66 con le gemelle Kessler, l'italiano che scopre l'euforia della rinascita, l'euforia di modelli a cui si sente non appartenere, ma con i quali in maniera a volte disastrosa, a volte scomposta, a volte puerile, si identifica. L'America lontana, l'America che sembra un sogno perfetto di esistenza lontana dai nostri vizi. Gli americani non bevono vino rosso. Avete mai visto un americano ubriaco? Figuriamoci. La sera dopo le 19 piena a Roma di americani ubriachi che vanno in giro. Se si può dire, una qualità degli americani è quella di facilmente essere propensi all'ubriacarsi, ma nel nitore visionario dell'americano a Roma degli anni 50 gli americani rappresentavano una sorta di UFO, di extraterrestri, di un modello al quale lentamente ci si stava adeguando, come pure le gemelle Kessler. Il sogno erotico plastificato e schermato da spessi collan che dovevano mascherarne l'aspetto carnale. Erano dei manichini di suggestione adulterina senza essere in realtà dotati di sesso. Era come una bambola Barbie, che uno gli toglie le mutande e non c'è niente sotto. Queste erano le Kessler per gli italiani negli anni 60. E Alberto Sordi in due occasioni le lambì, appunto in questa dichiarazione spassionata di mancanza di appillo organico. Dice: sì, ma avete dei fettoni, dei piedoni, sarete anche belle, e cominciate a rappresentare quel sogno estetico plastificato che la televisione inizia a proporci, che è ben differente dalle mogli, dalle amanti, dalle fidanzate, le amiche che abbiamo a casa, che sono un trionfo di sudore, di cellulite, di carne, ma sono donne. E voi infatti siete dei piedoni sproporzionati, non avete nulla a che fare con noi. Quindi riconosce l'Alberto Sordi, l'Alberto Sordismo, che noi il carattere alieno dei modelli che ci vengono da fuori, ma pur nonostante li abbraccia e li fa suoi. Questa mattina nella sala dei congressi dell'EUR si è aperto il convegno sui problemi della zootecnia. Vi partecipano 17 nazioni, tra le quali la Polonia e la Cecoslovacchia. Adesso che facciamo? Intanto speriamo che caschi con gli scioglilingua, poi vedremo. Prego. Vabbè, andiamo avanti con gli scioglilingua. Va bene, subito. Sopra la panca la capra campa, sotto la panca la capra crepa. A pelle, figlio da pollo, fisce una palla di pelle di pollo. Tutti i pesci vennero a galla a mangiare la palla di pelle di pollo fatta da pelle, figlio da pollo. 33 centini, andarono a 32 e 33 trottando. Sopra la panca la capra campa, sotto la panca la capra crepa. Altra meravigliosa, altro meraviglioso squarcio nell'Italia degli anni della rinascita e del risorgimento economico e del benessere. Nel 65 il dentone che affronta il grande passaggio, lo Stargate della celebrità, fa una selezione per entrare alla RAI come annunciatore al telegiornale. Guardate, era nel 65, non c'era ancora l'idea della televisione intesa come un fine, come un luogo di trapasso, come un luogo di eccellenza. Ancora la televisione richiedeva dei caratteri di particolarità per darti appunto la patente di personaggio televisivo. E questa surreale commissione composta da un prete, da un inglese perché sentisse la perfezione della lingua inglese, da una serie di personaggi, c'era anche Nanni Loi, il professor Cutolo, una corte dei miracoli però rappresentativa dell'establishment che in quel periodo deteneva il potere e il dominio dell'immaginario in Italia. Giudicava questo signore che aveva la perfezione nel suo essere scolasticamente un perfetto interprete di quella mistica rappresentazione dell'italiano perfetto, aveva un'edizione perfetta, una cultura enciclopedica e smisurata, parlava benissimo tutte le lingue, soprattutto non si impastava mai nel fare gli scioglilingua. Quindi una sorta di macchina, di robot, privo totalmente di sentimenti. Dovrebbe vincere lui, ma non vince perché già da allora la televisione si rivela una perfida selezionatrice di umanità, perché aveva un terribile difetto fisico, degli schifosissimi denti che gli impedivano di passare attraverso il passaggio privilegiato della celebrità. ho consegnato il compito per primo. Ho fatto citazioni in varie lingue. Gli altri volevano copiare tutti da me, compresi i promossi. Mi dovete dire la ragione per la quale io sono stato eliminato. Andrò a parlare con il professor Cutolo, vediamo lui che cosa dice. Per dove, scusi? Quello è capace di far nascere uno scandalo. Ha fatto venire due giornalisti e pure un fotografo. Voi siete la commissione che l'ha esaminata e a voi tocca la responsabilità di questo caso. Ora ditemi, con quale motivazione ufficiale... Ma cosa c'entra la motivazione? Scusi, lei l'ha mai visto in faccia? Ma se questo Bertone vuole sapere la verità, bisognerà che qualche dono gliela dica. Con quella bocca mi pare che basti. Batta un corno! 800240024. Guardate che è molto facile sentirsi Alberto Sordi. Al di là della facezia, al di là dell'aspetto caricaturale, quanti di voi nel corso della propria esistenza sono sentiti ingiustamente respinti o ingiustamente messi da parte o ingiustamente non considerati per il proprio valore, per il proprio impegno, per le proprie qualità, per delle dinamiche che vanno oltre le capacità e il talento delle persone? E quanti sono sentiti con i denti deformi pur non averli, pur non avendoli? Quanti sono sentiti diversi dagli altri? Quanti sono sentiti fuori dal gruppo, fuori dalla plancia di comando, solo per che un difetto assimilabile ai denti storti, che potrebbe essere uno status sociale, una non sufficiente capacità di aver vellicato quelle che sono le leve del potere, sono sentite improvvisamente come il dentone, fuori dal giro perché non si fa parte del gruppo. Questo significa anche essere Alberto Sordi. Orazio, buongiorno. Sì, buongiorno. Lei è un figlio di Alberto Sordi. Prego, sì, no, lei ha messo tantissima carne al fuoco e quindi nel tempo credo brevissimo che avrò a disposizione. Lei giri pure tutte le salsicce, l'ho messo sul fuoco, adesso allora tutto il tempo. Tiro fuori tutte le salsicce. E allora, figlio di Alberto Sordi, sì, fino a un certo punto. Se l'epoca ci ha detto che Alberto Sordi respingeva l'americanismo, però poi alla fine lo accettava. Secondo me invece no. Secondo me lo prendeva bellamente in giro. E lo prendeva bellamente in giro e in questo senso io mi sento figlio di Alberto Sordi. Io non sono mai entrato in un McDonald's, ma guardi che le ragioni politiche non c'entrano. Io non c'entro, soltanto che rimane addosso quella puzza di patatina fradicia, solo per non quello. Non mi piace la Coca-Cola, preferisco il vino. Al vino preferisco la birra, non mi ubriaco come si ubriacano gli americani, non sono uno spaccone come sono gli americani. Quando ragazzino andavo al cinema e vedevo i film del West, sicuramente mi rattristavo quando arrivava il settimo Cavalleggeri. Preferivo sicuramente le pochissime volte che vincevano gli indiani. Quindi in questo senso io... sì, secondo me Sordi ha preso in giro l'americanismo e gli americani, anche nell'episodio del vigile quando si finge sceriffo. Per quanto riguarda Dentone, dobbiamo dare una notizia buona a chi crede ancora nelle proprie capacità, indipendentemente dall'appartenenza, ed è che Dentone alla fine ce la fa, vince e diventa lo speaker del telegiornale. Perché non possono farne a meno, se ne va a braccetto con le gemelle Kessler. Certo, Sordi ha incarnato un po' il... Però mi permette una cosa, Orazio, in questo caso anticipa e profetizza quello che poi sarà la televisione. Alla fine di necessità fa virtù, dicono e dice anche il prete, ma in fondo con quei denti è simpatico. Quindi il mostro che comunque ha dignità di esistenza in televisione in quanto mostro viene preso non perché bravo, ma alla fine la sua qualità è essere mostro. E perché non possono farne a meno, perché era un uomo deciso che difendeva le proprie buone ragioni. Io sono innamorato di Alberto Sordi perché rappresenta davvero l'italiano medio con le sue virtù e con i suoi tanti difetti. E nei Due soldati, per esempio, mostra tantissima dignità, quella dignità che gli italiani di solito sanno tirare fuori, al di là poi... Sì, sempre nei momenti estremi, sempre di fronte al plotone d'esecuzione, però, sempre sì. Quando, ahimè, l'ultima botta sì. Di gloria, la carta ci possiamo giocare perché non avremo altre. Grazie sì. Comunque, Orazio. Orazio, lei ha messo ulteriore carne al fuoco, ma vorrei introdurre l'ospite di questa mattina, Valentina Pattavina. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. È autrice della Grande Anima d'Italia, un libro che è sì. Appena uscito per Einaudi Stile Libero, con allegato DVD, che è una grande antologia dell'Alberto Sordismo come cifra italiana, vero? Sì. è così, anche se è molto incentrato sull'Alberto Sordi televisivo, su quello che si è visto in televisione di Alberto Sordi, che erano molte ospitate, molte situazioni in cui andava a fare Alberto Sordi, a far ridere, a divertire, quindi non c'è cinema in quella videocassetta, ma c'è molto Alberto Sordi televisivo e anche stralci di interviste da lui. Era un ospite chiave, diciamo che era un ospite molto corteggiato dalla televisione, perché funzionava quando andava lui. Anticipava un po' quello che avrebbe poi fatto Benigni nei suoi momenti più felici. Lui metteva in ridicolo l'austerità liturgica della televisione, scherzava con Mina, con le Kessler, non lo faceva nessuno questo. Non c'è dubbio, ma scherzava anche fisicamente con loro, si faceva portare in braccio dalle Kessler, il famoso tucatuca con la Carrà, con il dito infilato nell'ombelico, erano comunque cose irridenti per l'epoca, perché ovviamente dobbiamo anche tener conto che c'era una censura televisiva e non solo televisiva, che era molto, molto forte, molto attenta, e quindi anche dei gesti come quello lì di infilare l'indice nell'ombelico della Carrà durante il ballo del tucatuca veniva, cioè, immaginiamo tutto. Forse bisogna dirlo per le generazioni meno attempate, sì. L'ombelico della Carrà in quell'epoca era la metafora della più impronunciabile e irriferibile delle cavità femminili. Assolutamente. Tutta l'Italia in quell'ombelico sognava delle profondità che non possono essere raccontate alla radio. Infilandoci il dito, lui metaforicamente infilò il dito nel sogno erotico di tutta Italia. Non c'è dubbio su questo. Non c'è dubbio, infatti anche per questo è stato prorompente. Io ho ascoltato con attenzione tutta la sua analisi e anche l'intervento dell'ascoltatore. Diciamo che sono d'accordo su tutto quello che lei ha detto, ma volevo aggiungere uno spunto in più, se lei mi permette. Ah, sì, figure, qua siamo qua per parlare. Un elemento in più che quello che secondo me non si possono fare i conti oggi con l'Alberto Sordismo senza pensare a quello che lui aveva dietro. Perché il mondo che c'era dietro Alberto Sordi è profondamente diverso da quello che c'è adesso dietro di noi. Però l'interessante sarebbe se riuscissimo questa mattina a definire l'evoluzione. Immagino che l'Alberto Sordismo è un organismo, come ogni cosa soggetta appunto alle regole dell'umanità, in evoluzione. Dove lo ritroviamo e dove si evolve l'Alberto Sordismo? Lei diceva prima, Valentina Pattavina, del suo atteggiamento alla televisione. Vorrei farle sentire un attimo, preso appunto dal DVD allegato al suo libro, l'atteggiamento che ha Alberto Sordi nei confronti di uno dei mostri sacri della televisione del tempo, che era Corrado. Intoccabile anche Corrado in quanto gestore di un programma televisivo, anche fosse la corrida. Allora il conduttore di un programma, una sorta di emanazione di Dio in terra, non si poteva mettere in crisi. Eppure Alberto Sordi dice qualcosa che è fulminante in quanto anticipazione di letture molto moderne alla televisione. Alla gente, al pubblico, piace la vittima, piace più scoprire che essere aggredito. E così ha simpatia e tenerezza per il poveraccio. Ecco il segreto del tuo successo, tu sei proprio un poveraccio. La vecchia, quando la vecchia sta davanti al televisore, ha tenerezza, simpatia, dice: guarda Corrado, poverello, tutti se la prendono con Corrado, dice. E lui lì impalato, buono buono, non dice niente. Quanto è simpatico Corrado, dice la vecchia. E vota per te. E la televisione te li conferma. E la vecchia è contenta, il giovane o meno, ma per la televisione quello che conta è la vecchia. Allora, dire a metà degli anni 60 capire che per la televisione quello che conta è la vecchia, e consideriamo che parlavamo allora di televisione come oggi parliamo di internet, del web 2.0, del più avanzato terminale dell'immaginario. Alberto Sordi lo disse: per la televisione quello che conta è la vecchia. Capì il profondo senso di arretratezza comunque di ogni lettura televisiva. Non è il giovane che importa, è la vecchia. Oggi ci stiamo eviscerando sulle analisi del digitale terrestre e delle nuove piattaforme di distribuzione, ma alla fine quello che conta tuttora è la vecchia. Egidio, buongiorno. Pronto, buongiorno. Anche per lei quello che conta è la vecchia? È la vecchia, decisamente. Decisamente la vecchia. Ma io volevo dire, se me lo permette, una cosa. Alberto Sordi sui 200-300 film non ha inventato niente, ha semplicemente interpretato l'italiano, ma nemmeno quello medio, di tutte le classi sociali. Mi ha detto niente, anche Plauto non ha inventato niente, anche niente, tutti coloro che hanno osservato l'umanità e l'hanno raccontata in poesia non hanno inventato niente, ma è proprio l'essere mediatori di una trasfigurazione che rimanga impressa di ciò che si vede, non è cosa da poco. Effettivamente è così. Però io volevo puntualizzare una cosa, no? Una mia esperienza. Negli anni 50, parlando dell'anti-americanismo, no, di Alberto, negli anni 50 un film di successo, di cui non ricordo il nome, rappresentava una famiglia italiana negli Stati Uniti che mangiavano gli spaghetti con le mani. E la cosa mi infastidì, ero giovanissimo allora. In uno dei viaggi che ho fatto negli Stati Uniti... Ma perché hanno visto Miseria e nobiltà di Totò, che c'è, cioè, una scena famosa in cui mangiano tutti i maccheroni, sì, con le mani. Sì, ma è un giocare in maniera paradossale sulle nostre passioni. Sì, certo, ma negli Stati Uniti l'idea dell'italiano che mangia gli spaghetti con le mani è tramontata. Io, alcuni anni fa, una quindicina d'anni fa forse, nello Utah, in un paesino di 300 anime, ci fermiamo a bere una cosa, entro in un bar che vendeva di tutto, dalle pistole alle lavatrici, e questo intuisce dal mio inglese che ero italiano. Mi fa: italiano, italiano, dice: vieni, postaino, faceva, postaino, vieni. Mi ha portato sul retro del negozio, c'era uno spiazzo dove c'erano delle sedie tutte allineate, uno schermo e un manifesto del postino, che si vedevano il paese, se lo vedeva tutte le sere da un mese. Ah, quindi era una sorta di piccolo lembo di raffigurazione dell'italianità passata almeno attraverso i film. Questo immagino che le abbia fatto piacere, ma il piacere che l'hai provato è un sintomo profondo e inalienabile di Alberto Sordismo. Melog 2.0. Stiamo parlando della categoria dell'esistere, che è l'Alberto Sordismo. Siamo partiti cercando di stabilire due atteggiamenti nei confronti di questo modo d'essere. È l'uno che ci si identifica, che ne vede i limiti ma non rinnega il proprio patrimonio genetico, e quello che invece prende le distanze, dice Alberto Sordi, fa parte di una misera rappresentazione di ciò che io non sono e non voglio essere. Valentina Pattavina in studio, autrice della Grande Anima d'Italia, Alberto Sordi, dal Teatrino delle Marionette ai Fasti del Cinema, libro uscito per Einaudi Stile Libero, contiene anche un CD con passaggi di Alberto Sordi in televisione. Valentina, ma Alberto Sordi nel corso della sua carriera di macchiettista e rappresentatore dei nostri limiti ha subito censure reali, concrete e dolorose? No, questo no. Era un ambiente, quello in cui lui si è mosso, nel periodo in cui lui si è mosso maggiormente, che è quello del secondo dopoguerra, diciamo quello proprio del suo boom assoluto in fatto di fama cinematografica, che era sicuramente vessato dalla censura. Non dobbiamo dimenticare che in quel periodo la Democrazia Cristiana e la Chiesa insieme camminavano a braccetto per condizionare la vita degli italiani sotto l'aspetto proprio del costume, una grande influenza sul piano politico e anche sociale, per cui non so. E come le passò indenne Alberto Sordi, che ha rappresentato di tutto? Indenne perché riusciva benissimo a dire le cose che voleva dire, rimanendo sempre fermo un attimo prima di saltare il gradino. Quindi furbacchione e Alberto Sordi anche in questo? Assolutamente. Massima icona dell'Alberto Sordismo. Non c'è dubbio, tant'è vero che in quel periodo proprio vessato dalla censura e dal moralismo, riuscì a fare un film che si chiamava Il Moralista, dove proprio metteva alla berlina questo malcostume censorio, e illustrando la figura di questo funzionario, di un burocrate che era un pornografo, un pappone, non faceva altro che attaccare tutti a destra e a manca sulla base di una morale integerrima, e poi invece sotto banco faceva la tratta delle bianche, sì, sì, sfruttava prostitute nei locali, sì, notturni, eccetera eccetera. E era un'epoca in cui, per dire, la Rai mandò in onda lo sceneggiato Casa di Bambola, facendo morire il dottor Rank di tubercolosi anziché di sifilide. Sì, perché è un male innominabile. Esatto, che non si poteva nominare all'epoca. O non so, Giulio Andreotti bloccò per 13 anni la governante di Brancati perché metteva in scena l'omosessualità femminile. Ecco, succedeva questo in quel periodo. Lui però era bravissimo a fermarsi un passo prima, e per il resto non ha subito proprio interventi censori. Alcuni suoi film furono attaccati dalla stampa e dalla critica, e a volte anche dal pubblico. Per esempio, contro la Grande Guerra all'inizio si scatenò una grande bagarre, perché veniva accusato di oltraggio alla memoria dei tanti valorosi che si erano immolati per la patria durante la Prima Guerra Mondiale. Questo veniva visto di malocchio, ovviamente. O lo stesso Borghese Piccolo Piccolo, anche se lì poi andiamo a un'altra fase ancora della sua carriera, però spaccò letteralmente in due la critica e il pubblico, perché da una parte c'erano quelli che diceva che il film incitava alla violenza, invitava il cittadino a farsi giustizia da sé, quindi doveva essere proibito, mentre altri lo accoglievano a braccia aperte, perché invece diceva che mostrava tutte le storture. Guardi, non a caso però il Borghese Piccolo Piccolo, però tratto da un romanzo di Vincenzo Cerami, esatto, sì, è uno dei film che si ricorda meno, e trovo sia uno dei film più intensi di questo, sì, signore normalissimo. Una grandissima prova d'attore, grandissima di Alberto Sordi. Però non so perché c'è una sorta di rimozione generale su questo film, non si vuole ricordare, atroce. Ricordo velocemente proprio un borghese che tutta la sua vita è nell'investimento in un figlio, che gli ammazzano per strada un giorno un terrorista durante una rapina, e il resto della sua esistenza lo impiega a ritrovare questo assassino del figlio, a portarlo in una baracca con la moglie paralizzata dal dolore e via dicendo, e lo uccide, lo tortura lentamente portandolo alla morte. Ma la cosa peggiore è che alla fine del film, chiuso questo episodio, lui capisce di avere in mano un'arma potentissima, quella della vendetta personale e privata, e un giorno che uno lo maltratta per strada, per un parcheggio e via dicendo, ricomincia a seguirli, sa che diventerà una macchina da omicidio quel borghese. Ma ne vuole parlare di questa vicenda. C'è Alfredo. Alfredo, buongiorno. Sì, buongiorno. Mi sente? Certo. Sì, buongiorno a lei e alla sua ospite. Sì, avevo chiamato proprio per questo film, che io, avendo anche a meno di 50 anni, quindi ho vissuto diciamo l'ultimo Sordi, poi gli altri film li ho visti man mano. Però ecco, volevo richiamare l'attenzione proprio su questo film, Un Borghese Piccolo Piccolo, che secondo me è il film più bello di Alberto Sordi, che è vero che ha messo in evidenza pregi e difetti degli italiani sempre sotto un aspetto diciamo comico. In realtà Un Borghese Piccolo Piccolo ha messo il dito su un aspetto tragico, che è la morte di un figlio, ma lei l'ha appena richiamato, quindi io volevo al limite... Soprattutto, secondo me, lo sa, secondo me è la crudeltà innata che c'è in ciascuno di noi, la capacità, bravo, di essere omicidi, bravo, che abbiamo un argomento che c'è molto caro, di cui abbiamo parlato più volte. Ma infatti io sarebbe, è quasi una provocazione la mia, quanti si sentono figli di Alberto Sordi nella fase tragica? Cioè, quanti si rispecchiano, quanti farebbero quello che ha fatto Alberto Sordi, diciamo nella parte comica, il moralista, il giudice, tutti dentro e tutte queste cose qui, ma quanti si rispecchiano invece in un padre che si vede uccidere un figlio durante una rapina e poi perde la testa facendo quello che ha fatto nel film. Sì, ma ripeto, la cosa più terrificante di quel film non è tanto il detestabile omicidio riparatorio di un atto che lui ha subito, ma è la titanica lussura dell'omicidio. Una volta, certo, fatto, lui sa che può continuare a farlo, certo, che è esattamente, certo, la chiave che ci dicono i criminologi, che muove i serial killer, che muove, certo, le normalissime persone capaci di uccidere. Grazie. Antonio, buongiorno. Buongiorno. mi era completamente antipatico Alberto Sordi, devo essere sincero, io ho 50 anni, però riscoprendo e rivedendo alcuni suoi film, alcune, ho dovuto cambiare completamente idea, perché praticamente rispecchia in buona sostanza l'italiano, diciamo, come diceva anche l'ascoltatore, non ha inventato niente ma ha inventato tutto, perché praticamente lui ha portato sullo schermo quelle sfaccettature, quel lato di umanità, quella con tutti i difetti più che i fregi dell'italiano praticamente. Sì, ma quando lei dice questo, quando noi diciamo, analizziamo Alberto Sordi, si rende conto che abbiamo un facile sollievo della nostra coscienza? Parliamo di lui come se fosse il collettore e la spugna imbevuta di tutti i nostri difetti, ma rovesciamo un attimo l'immagine e vediamo se lei è d'accordo quanto noi siamo anche lui. Lo siamo nella maniera in cui ci vogliamo proporre nella realtà quotidiana, ma in buona sostanza credo che sia stato anche un buon osservatore, diciamo, della gente che era intorno a lui, secondo me, perché anch'io osservando tantissime persone, sono in giro per lavoro tutti i giorni, mi rendo conto che ci sono veramente tanti personaggi comici, tragicomici e tutto questo. Io sono più estremista di lei. Io sì, osservo la gente perché fa parte del mio mestiere, della mia passione, ma osservo me stesso e ci vedo ancora di più Alberto Sordi. Boni, state buoni. Oh, te. E non si fuma, ragazzi. Senti un po', sei di servizio qui, te? Me pare. Romano, eh? Perché? Perché? L'italiano in fanteria e il romano in fureria. Voglio di certo. Per la cronaca sto posto non l'ho scelto io. Io uso obbedir tacendo e tacendo morir. Va bene, lascia andare. Comunque, dico, ci potrebbe essere vero qualcuno, con rispetto parlando, che malgrado l'apparenza è contrario, c'ha la salute minata e non se la sente mica. Allora, vero, un rinvio? Poi sdebitandosi, si intende. Sarebbe anche un'opera di umanità. Mo che dovrei dire io? E romano abita rollato e il milanese riformato. Va bene, come non detto. Vieni qua, aspetta. Sì, che? Che non si dica poi che noi c'hiamo l'animo cattivo. Hai detto che sei malato? Mo voglio vedere che si può fare. Guardate quanta attualità bruciante c'è in questo dialogo fra il romano e il milanese nell'ufficio di leva. Il burocrate, quello vicino al ventre molle, al potere, promette al milanese che riuscirà a riformarlo. Si troveranno entrambi poi sul fronte di guerra ed entrambi davanti al plotone d'esecuzione. Melog 2.0. Piano, andate piano, il fondo è sdrucciolevole, piano, perché correte, piano, c'è la curva della morte, c'è il burrone, piano, peggio per voi, vi dico che si scivola, piano. Stop, bloccarsi tutti, lasciate passare la veloce macchina del signor sindaco, via, vada pure tranquillo signor sindaco, tanti auguri, vada pure. Ma perché non c'è blocchi a quello, no? C'hai famiglia tu? Sì. Io pure, pensa ai fatti tu. Ma dove andate a quella velocità? Eccola, dentro al burro. Il vigile Alberto Sordi e la curva della morte. Mi scrive su Facebook Stefano Piccione, che è un maniaco di Fellini, dice che, diciamo la verità, non subì mai alcuna censura perché era considerato di più un cialtrone. Verdone Fellini docet, e quindi come cialtrone non era censurato. A Venezia fu sdoganato dallo stesso Fellini. Prima dei vitelloni non si poteva neppure mettere il suo nome sui poster pubblicitari, salvo rischiare un flop. All'inizio era antipatico quasi a tutti, quindi nasce come una figura che non prometteva nulla di bene, vero Valentina Pattavina, Alberto Sordi? È vero, quello che dice l'ascoltatore, che ha scritto su Facebook. Sì, è un ascoltatore, molti mi ascoltano e scrivono giusto, su Facebook. Ascolta e scrive in questo caso. No, dice assolutamente il vero. Il sogno di Alberto Sordi è sempre stato il cinema. E per raggiungere il cinema lui ha fatto di tutto, quindi lui ha iniziato dal teatro, poi ha proseguito con la radio, con l'unico scopo di arrivare al cinema e di sfondare lì. Però in effetti è vero, all'inizio risultava un personaggio personaggio profondamente antipatico, è lo sceicco bianco, che è il primo film di rilievo che ha interpretato. Che fa l'attore di Fotoromanzi, che, esatto, era, che era l'Hollywood dell'Italia del dopoguerra. Esatto. Tra l'altro, oltre a risultare lui molto antipatico come personaggio, il film ebbe anche risultò un insuccesso, perché era una forte presa in giro appunto del genere del fotoromanzo, che in quel periodo impazzava ed era seguitissimo. Valentina, diciamoci la verità, gli italiani non hanno un senso dell'autoironia. No. Io da 20 anni faccio radio, la cosa più difficile, la cosa più difficile è riuscire a far capire letture che non siano lineari agli ascoltatori, è molto difficile. Però paradossalmente si sono poi affezionati ad Alberto Sordi più avanti, quando lui cominciò a fare questi personaggi più prorompenti. Proprio, l'exploit ci fu proprio con Nando Moriconi di Un americano a Roma e prima ancora di Un giorno in pretura, perché lì si mettevano in evidenza una serie di difetti in chiave comicissima, e Alberto Sordi capì che la chiave era quella, cioè l'italiano vuole ridere di sé. Quindi riesce a ridere dei propri difetti e a vedere in chiave diversa la rappresentazione dei propri difetti solo ed esclusivamente se lo si fa in chiave comica. Ma tutti noi abbiamo bisogno comica. Di un cialtrone che faccia da carta assorbente dei nostri difetti, e ci piace poi puntare il dito e ridere del cialtrone senza rendersi conto in realtà che è lo specchio fedele di quello che noi siamo. Stefano, buongiorno. E buongiorno. Mi viene da ridere, perché non si può non ridere quando si parla di Alberto Sordi. Ecco, parliamo un po' dell'aspetto. Io ho messo i due soldati della Grande Guerra, il romano e il milanese. Straordinario, straordinario. Vedere insieme un milanese e un romano è qualcosa di straordinario, perché possiamo paragarli come il diavolo e l'acqua santa, no? Ma fino a un certo punto, vedo che oggi trovano dignitosi compromessi anche per stare assieme. Quindi. Oggi sì, però io volevo dire di Alberto, il grande Albertone, che questa sua comicità, questa sua ilarità, questa sua cattiveria, questa è romana. Cioè, nel senso, Alberto poi se ne è appropriato l'Italia intera, ma nasce con queste caratteristiche. Ecco, come mai secondo lei la romanità, che è una caratteristica limitata, romanità, regionale, diventa un carattere nazionale? Diventa un carattere nazionale perché Roma affonda nelle sue radici, nello scherzo, nel ridere, nel sarcasmo, nella cattiveria. Roma è una città particolare, io insomma, ho girato un po' e veramente penso che sia unica, differente da tutte le altre. Ma io sono naturalizzato romano ormai da una 30 anni. In parte è vero, in parte no, in parte... Ma poi stiamo parlando di un'altra Roma. Di una città che non esiste più, perché Roma non c'è più, diciamoci la verità. Ma non so se essere contento, io sarei anche contento che le città non abbiano più le loro caratteristiche millenarie. Oggi è il momento della fusione, il momento del mix. Osserviamo il caos con grande divertimento, anche perché questo ci passa il convento della nostra contemporaneità. Eh sì, ci dobbiamo adattare a questo. Però se potessimo ancora dispensare con... ilarità, cattiveria fra virgolette, insomma quella cattiveria umana che esalta dei difetti, il riso e il ridere sicuramente a Roma ancora c'è, poi chiaramente sarà un po' più complicato trovare. Alessandro, Alessandro, buongiorno, grazie tanto Stefano. Alessandro, anche lei su Gassman e Sordi ha qualcosa da dire, e su Gassman e Tognazzi poi in particolare? Prima di tutto mi sembra estremamente felice la scelta che lei ha fatto proprio in questi giorni, in questi tempi, no? Sì, ma non si arruffiani, vada avanti, vada alla domanda. Di aprire una trasmissione, di fare una trasmissione dedicata ad Alberto Sordi e di conseguenza a tutta una serie di figure, tutto sommato in parte simili a lui del cinema italiano di quegli anni, che sono un po' il nostro specchio penitenziale, no? Vale a dire Gassman, Tognazzi, anche Manfredi, no? Sì, è il breviario quotidiano su cui noi cerchiamo la nostra salvezza, ci illudiamo da cui venga la nostra salvezza, ma noi rimaniamo sempre gli stessi. Sì, assolutamente, soprattutto in questi tempi, dato anche lo spettacolo triste e drammatico delle trasmissioni post-elettorali, che sarebbe stata una materia... Sì, tutti i politici sono in qualche maniera una figura di Alberto Sordi, nessuno escluso, diciamo la verità. Assolutamente. L'ambisce tutti. No, la cosa che a me premeva in un certo senso sottolineare è questa. Io sono sempre stato, io appartengo a una cultura della borghesia progressista e di sinistra. Quindi di quelli che lei dice ce lo meritiamo Alberto Sordi? Ecco, volevo volevo arrivare proprio a Nanni Moretti. Quando ero più giovane, io ho 46 anni, quando ero più giovane, quando ero molto giovane, negli anni, primi anni 70, militavo nella Federazione Giovanile del Partito Comunista e naturalmente ricordo molto bene come noi ragazzi... Partito da Nanni Moretti, non voglio essere cattivo, è partito da Ce lo meritiamo Alberto Sordi, è finito a ingropparsi la Ferrari su Caos Calmo, quindi non è che poi... No, aspetti, mi faccia finire. E eravamo imbevuti, no? Di tutta una serie di indottrinamenti culturali che imponevano, e questo è vero purtroppo, no? Una serie di scelte, un dettato ben preciso, no? Io ricordo molto bene come invece io rimanevo, ma poi crescendo anche in anni universitari, quando si matura una coscienza un pochino più autonoma, no? Rimanevo affascinato, straordinariamente affascinato dalla violenta, amara critica sociale invece portata avanti proprio da non semplicemente attori ma autori, no? Come Sordi, Tognazzi e Gassman stesso. Ma infatti guardi, è straordinario vedere, salvato in un certo, certo, senso. È straordinario vedere certi film tipici di quell'epoca, della commedia italiana, con gli occhi di oggi, e hanno lasciato e lasceranno tracce indelebili del nostro passato recente, più quei film che collane intere di esegesi politica e di analisi politica di quegli anni. Questo ne sono convinto e questo lo assolve dall'essere stato un antisordista. Ringrazio e saluto, e mi dispiace per coloro che sono in linea e non possono parlare, ma ritorneremo sull'Alberto Sordismo, mi sembra una categoria ancora degna di essere analizzata. Ringrazio Fabrizio Intonti e Paolo Corleone, ci sentiamo domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22. Melog 2.0.